Eccoci! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Sono squadre molto migliori di noi, comunque ci crediamo che possiamo competere anche con loro. Forse è brutto dirlo, ma in realtà abbiamo perso contro la squadra più forte, non c'è nulla da dire, bisogna dare meriti a Napoli, a Sarri, ha fatto la differenza i loro attaccanti e la nostra fase difensiva. Qualche settimana fa aveva addirittura etichettato come una sorta, quasi come una bestemmia parlare di scudetto, adesso come lo definisce? È sempre una bestemmia. Ha sempre avuto due o tre occasioni limpide che noi abbiamo concesso lasciando dei contropiedi, quindi in questo era sempre molto bravo. Secondo tempo, dopo il gol e il contropiede di Muri, la partita è totalmente cambiata e lì potevamo anche vincere, però alla fine credo che insomma il pareggio ci stia. Ci hanno fatto sta rapina a mano armata questi. Questa è una partita che dovevamo vincere 11-1, uno io da uno. Però quando c'è San Culino, che vuoi fare? Guarda, non è che l'Inter è meglio di noi, noi siamo i più forti di tutti quanti, di tutti. Dopo questa sconfitta ho sentito il gruppo veramente unito e che aveva tanta voglia di fare bene questa sera. E sapevamo anche che avevamo iniziato contro il Carpi con una vittoria, una striscia che volevamo continuare oggi. E abbiamo sentito così le voci della domenica. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Mecchioni in redazione, Sarri, Mihajlovic, Mancini, Ferrero, Garcia. E oggi è il compleanno della radio, dopo lungo corteggiamento sono riuscito a strappare la presenza del signore del mattino di Radio 24, Alessandro Milan, tifoso di quel che resta del Milan. Ti ringrazio Carlo, è proprio il giorno giusto. È il giorno giusto, ringrazio, è il giorno perfetto. Sono qui. Ma sai, c'è Pardo che in tempi non sospetti ha pronosticato un Napoli da scudetto. Ciao Pierluigi. Ciao, buongiorno dottor Milan. Pensavo un 4-0 aveva pronosticato. Dottor Milan, ma com'è svegliarsi tutte le mattine? A che ora si sveglia lei all'alba? Alle 5. Volevo oggi alle 4 in onore del Napoli. Ma insomma, alle 5. Lei lo sa che questa cosa la rende automaticamente una persona speciale, sì, come certo, tante persone. Perché si è presentato oggi, no? Certo, no, ma è chiaro, ma è Giorgino De Luca, si può dire che squadra sì. È? Sì, sì, sì, sì, ieri alle 11, alle 23 tutti. Mi manda questo messaggio: ti ricordo che sei convocato domani. Cioè, una vergogna. Ho detto quel che resta del Milan. Sì. Cosa resta del Milan? Ma cosa mai c'è stato del Milan? No, cosa mai c'è stato del Ragazzi, Milan? Ma è una squadra ridicola. Ma è una squadra ridicola da anni, che ha un serio problema a centrocampo, dove schieriamo un ex giocatore da 3 anni, Montolivo, e altri giocatori che prendiamo a 10-15 milioni dicendo che il problema è risolto, e poi ci lamentiamo della difesa, ci lamentiamo, prendiamo due buoni attaccanti senza ricordarci... 13 gol... 13 ho capito, gol in 7 sì, partite, ma certo, ma se tu hai Zapata seconda peggior che fa... difesa dopo il Carpi che ne ha presi 10 voi in due che gare. Siete dei maestri del calcio, mi insegnate che le partite si vincono e si perdono al centrocampo, e noi da 4 anni abbiamo un centrocampo ridicolo da decimo posto in campionato e facciamo finta che dobbiamo andare a comprare Balotelli o due buoni attaccanti, ma se tu dal portiere alla tre quarti non hai nessuno di livello, gli attaccanti stanno lì e guardano la palla e che devono fare? Ha toccata piano Pierluigi il dottor Milan. Beh, ci metterei hashtag rassegnati. Hashtag rassegnati, sì. È il suo hashtag preferito. Ma vogliamo cambiare Mihajlovic sul serio? Ma stiamo scherzando? Ma per favore. 800240024 sì, non no, mettiamo Seedorf, ma Seedorf il centrocampista. Sì, a giocare. No, a giocare. Ma, però scusami, non va cambiato Mihajlovic, questo ovviamente, però ci sono nella campagna acquisti di quest'anno, secondo me, degli elementi di responsabilità dell'allenatore. Cioè quest'anno il Milan B o non B, closing o non closing, ha speso i soldi, non è che non l'ha spesi male. Il giorno della presentazione di Romagnoli non mi sembra aver visto le barricate in piazza dei tifosi rossoneri, no? C'è anche onestamente una io sono d'accordo con il fatto che il Milan negli ultimi anni abbia spesso concentrato le sue energie mentali nel cercare di risolvere problemi che erano meno problemi di altri, nel cercare continuamente il colpo ad effetto quando invece serviva la sostanza, la ciccia, la torta e non la ciliegina. Detto questo, quest'anno la campagna acquisti sarà una campagna acquisti sontuosa. Bacca è comunque un buon giocatore, Luis Adriano è un buon giocatore, Romagnoli Romagnoli può essere il futuro, è chiaro che in una squadra con così tante difficoltà anche i buoni giocatori spariscono. Pierluigi, a centrocampo chi abbiamo preso? Tot milioni per Bertolacci, questo 20. No, certo. No, ma allora sono d'accordo con te, però voglio dirti, quella, a parte Bertolacci è stato pagato 20 milioni, è stato il primo acquisto, sembrava un'eresia, poi alla fine abbiamo visto altri giocatori pagati comunque cifre importanti, quindi secondo me, lo dico sinceramente, in questo momento ci sono le responsabilità dell'allenatore, cioè c'è un problema anche di manico, al di là del fatto che poi ha ragione Mihajlovic quando dice che il Napoli, sapete come la penso, è la squadra, in questo momento è la squadra più forte, secondo me è la grande favorita per lo scudetto. Scrive anche è... Sconcerti, la squadra di riferimento, oggi sul Corriere della Sera, la squadra di riferimento del campionato, è l'asticella del campionato, no? Per chi vuole vincere. Direi di sì, con tutto il rispetto, non ce ne vogliono a Firenze, stanno facendo delle cose meravigliose, però io credo che il Napoli abbia un po' di struttura in più per poter vincere. Sì. C'è la Juve che sta tornando, c'è la Roma che fra alti e bassi comunque ha una grande struttura di squadra, c'è la Lazio che zitta zitta che fa benissimo, c'è l'Inter che adesso non è che ce la siamo dimenticata, quindi direi che è un campionato che ci può divertire e non è che sia finito oggi. Però se ti dovessi dire, ma te lo dico da quel giorno, quel Napoli-Lazio, che cosa mi ha realmente abbagliato e che può durare secondo me nel 38 partite e aprire quasi un ciclo, io penso al Napoli oggi. Ma certo. Poi Firenze straordinaria, bellissima, Paolo Sosa, città in festa, proprio merita massimo rispetto, tra l'altro c'è la Napoli-Fiorentina adesso. Gufo, area di primavera, sei un gufo, aveva trovato il gufo, pardon, se ti sente Renzi, sei un gufo. Renzi fa il decreto, fa il decreto che lo farò domani. Sospende il campionato, è finito. È finito. Dopo 7 giornate. Il campionato è finito, basta così. È finito. Ma tu cambieresti, Mihajlovic, Alessandro Milano? Ma no, ma assolutamente, ma che dobbiamo fare? La storia di Seedorf, la storia di Inzaghi, la storia. Ma cosa, cioè, cambia Mihajlovic? Va bene, io non so se abbia in questo momento un Pierluigi polso. Non ha torto nel dire che c'è un problema di manico. Se arriva un altro, si ritrova con quelli che ha avuto Mihajlovic e quindi è ancora peggio, no? Ma il Milan migliorerà, io mi sento sereno su questo, il Milan migliorerà, ieri ha giocato contro il Napoli, che è in una anche perché peggio di Chiesa, certo. Però voglio dirti, ieri ha giocato contro una grandissima squadra, ha giocato in un momento in cui ha dei problemi, aveva Romagnoli squalificato, Balotelli fuori, quindi il Milan migliorerà, bisogna essere onesti, io a Sinisa gli voglio proprio bene, mi sta simpaticissimo, però ci sono anche delle responsabilità dell'allenatore, 4 sconfitte in 7 gare partite. Dopo che hai speso 90 milioni di euro, poi torna a ripeterti 13 gol subiti in 7 partite, poi non lo cambierei mai, sarebbe assurdo cambiare. Adesso non ha senso, adesso non avrebbe senso perché sennò ricominci da capo, è chiaro che non ha costruito nulla fin qui. Ci fermiamo per il traffico, torniamo subito, c'è Gialino da Pavia in onda, collegato 800 24 00 24, numero verde, e poi ovviamente parlare anche del Napoli, con il suo permesso, dottor Milan. Napoli, una grandissima squadra, con quello che secondo me è adesso il miglior giocatore italiano, che si chiama Lorenzo Insigne in questo che momento. Ho al fantacalcio ma ho anche Diego Lopez, quindi traffico, di che cazzo stiamo parlando? Tutti convocati. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presento. Tutti convocati. Cioè, capisco la sconfitta, però ti sento un po' provato. Poco Mihajlovic. Cosa devo fare? Salti mortali di gioia? Poco Mihajlovic come grinta, intendevi? Ma io sono sempre grintoso, non è quello. Capisco che è difficile anche pensare, immaginare Milan alto, visto come abbiamo giocato in queste 6-7 partite, quanti alti e bassi abbiamo avuto, però Il nostro obiettivo rimane quello e cercheremo di raggiungerlo. Allora, magari ci vuole Freud per farlo. Non so se ci vuole Freud. Alessandro Milan, che ringrazio di nuovo. No, ha ragione. Guarda, ieri mi ha colpito molto, giusto per parlare del Napoli, la dichiarazione di Sarri, quando ha detto: noi abbiamo una squadra che va in campo per divertirsi, e quando i giocatori si divertono si vince. E guarda, io avevo la stessa impressione. Sai cosa mi comunica il Milan in questi anni? Sono depressi. Sofferenza. Sono depressi. Sofferenza. Guardi De Sciglio che si appresta a fare una rimessa laterale, c'ha la faccia da depresso. Tu lo guardi in faccia e dici: questo perde oggi. Perdono, sono depressi e comunicano depressione a noi. Body language, dicono gli americani. Milan è pronto per Tiki Taka, io lo penso da te. Sono depressi. Sono depressi. Come faccio a tenerti in panchina? Sono depressi. Come faccio dopo questa perla? Tanto c'è Sollazzo, Boris Sollazzo, che non chiamiamo solo quando perde. Anche se quando ormai Napoli non perde più, ci divertiamo molto a chiamare Boris Sollazzo quando Napoli perde, ma ormai è lanciatissimo. Di quella Boris, di quella parola, dilla. Sono abbastanza sconvolto. Abbiamo dovuto fare 18 gol e prenderne solo uno in 6 partite per riuscire a farmi chiamare dopo una vittoria. Di quella parola. Ma io non la dico. La dico io. Allora, abbattezzaci, dai. No, non ti battezzo. No, per più grande rispetto. Per più grande rispetto per la scaramanzia, non te la dico. Però sono 2 settimane che lo dico. Ragazzi, io vedo una cosa diversa da tutte le altre. Poi forse ho le visioni, io vedo da 3-4 partite da Napoli Lazio, io vedo con Carpi che vabbè è stato ritrante, la partita bloccata, non un bel Napoli, ma tolto Carpi io vedo una cosa completamente diversa da tutte le altre, e anche la Fiorentina è diversa da tutte le altre, però ho la sensazione che possa durare un filo meno, perché mi sembra costruita oggettivamente per qualcosa di meno. Poi magari invece sarebbe bellissimo. Ma magari Reggio gioca un calcio meraviglioso. Poi c'è la Roma che può fare benissimo, c'è la Juve che sta tornando. C'è l'Inter. Però se io ti dovessi dire oggi la cosa che abbaglia, la cosa che dici è la meglio della festa, ecco, è il Napoli. In questo momento la bella della festa è il Napoli. D'accordo. Per il distacco. Sono d'accordo. E quindi se volete guardo un'altra squadra, però io ti dico di più, continuerà ad essere la bella della festa, ma non sarà quella che uscirà con il signore che inizia per scu e finisce per detto, nel senso che l'avevo detto all'inizio. Ma perché sei così pessimista? Perché? Ma no, non sono pessimista. Allora, parlavamo di squadre costruite, si chiama scaramanzia. Posso fare un momento di outing? In questo preciso istante, che ci crediate o no, ricevo una chiamata della signorina Melissa Satta, che forse sta ascoltando. A proposito della più bella della festa, mettili in onda. Pare brutto. Giuro che c'è, però. Lino Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, complimenti e grazie per la convoca. Rapidissimo. Allora, incantato dal Napoli, vi chiedo una cortesia. Sì. Una telefonata a Diego Armando, così magari fategliela fare da Cruciani, che è più bravo con il telefono. Magari quando ci sono anch'io, possibilmente. Va bene. Grazie comunque. E poi un'altra cosa, al signor Pardo, grande tele e radiocronista, sì. Se può far assomigliare la sua trasmissione più a pressing che non al prosecco del lunedì, come lo chiamava Indro Montanelli. Grazie, vi ascolto in radio. Dio mio, ci proviamo. Stasera c'è De Laurenti, c'è anche Pupo. Non so, forse Pupo le fa sì. Un po' come processo, com'era. C'è Paolo Rossi. Mancava facesse una richiesta di un disco, questo ascoltatore. Mettete su un disco. Come... Mettiamo un disco. No, io volevo sentire la fine del discorso di Boris Sollazzo prima di andare a Trento da Lorenzo, che no, credo sia un milanista depresso. Credo. Io l'avevo detto proprio qua con voi, che vedevo molto bene Roma, Fiorentina e Inter. Adesso ho sbagliato l'ordine, ma sulla Fiorentina io avrei puntato ad occhi chiusi, e secondo me ha anche il vantaggio di non avere grandissime pressioni e di avere un ambiente che in questo momento può dargli una spinta. Poi io non credo minimamente, ma la Juventus è come Berlusconi, non lo risorge sempre. Mi sembra una squadra che riuscirà a risalire. Il problema del Napoli è che il Napoli continua ad avere Isai, continua ad avere Koulibaly, continua ad avere comunque tutta una serie di giocatori che chiaramente mostreranno anche il problema dell'inesperienza, della giovane età. E io quello che ho detto mesi fa, l'ho detto dopo le sconfitte, lo dico dopo le vittorie, è che questa è una squadra che ci farà togliere tantissime soddisfazioni, come il 5-0 con la Lazio, come lo 0-4 con il Milan. Ce ne saranno altre, magari andremo a vincere a Torino. Però non è una squadra, per come la vedo io costruita, che può permettersi una continuità che poi può portare allo scudetto, a meno che, ma c'è già la continuità, Alessandro, come la vedi? Partite che continua, è cominciato tutto. No, a me sembra la continuità c'è, ha iniziato il Napoli un po' in difficoltà, un po' in sordina, Sarri ha trovato le misure, ma adesso ragazzi fa anche del gran calcio. No, spesso è vero che il gran calcio non è per forza abbinato ai risultati, lo dimostra l'Inter all'inizio, scherzo, questa concedetemi. Però invece io credo che proprio il Napoli sia una squadra adesso che ha trovato degli equilibri impressionanti, al di là del fatto che incontrava ieri un Milan un po' in disarmo, però ha fatto una grande partita, non ha mollato un secondo fino all'ultimo. Guarda, l'unica cosa che mi fa piacere è che il Napoli finalmente ha iniziato a vincere con le piccole come la Juventus e il Milan, quello sì. E quindi che cosa manca? Allora cosa manca? Cioè, voi, allora, dici, andiamo magari a vincere a Torino. Partite, 18 gol fatti, un gol subito. Sciacchiamoci la bocca, bocca piccola ex squadra al Milan adesso, mi arrabbio, sarò depresso ma mi arrabbio un po', Manca che il Napoli, la mia era una battuta ovviamente, manca scherza, che il Napoli è lo stesso Napoli che ha fatto due punti in tre partite, è cambiato, non è cambiato, ma come no, è cambiato tutto. Boris, ragazzi, vedrete, perché non è la storia dei moduli, come io non ci credevo quando c'era Benitez, non ci credo nemmeno come Sarri. Sarri, quello che su cui vince non è il modulo, è lo schema, è la capacità di far inserire Allan. Appena Allan ha un problema, appena Allan ce l'avesse ma è questa la differenza. Aspetta, che se Allan ha un problema ne mette un altro, però, cioè quando ragazzi, tu hai una squadra che gira bene, ma se non mi fate Allan appena un problema di ossigeno come nel primo tempo con il Leggia o come con il Carpi, non ha nessuno che lo sostituisce. Hamsik non ha un sostituto. Quando il centrocampo titolare ha un problema entra David Lopez, che è uno dei giocatori più scarsi della Serie A. Il problema è quello, e secondo me anche la Fiorentina, che nell'11 non è più forte del Napoli, nei 18 nei 20 è più forte del Napoli, perché il Napoli ha grandi giocatori. Io mi sento di giocare una squadra scarsa, ma ho scoperto che c'è squadre più scarse di noi, tipo il Napoli. Ma io non dico che è scarsa, ti dico andremo a vincere a Torino, magari a vincere per Roma. Vinci a Torino, vinci con le piccole che ti manca, fammi capire. Fra due settimane finirà per perdere con la Fiorentina, e quel tipo di discontinuità secondo me non la perderà. Poi ho capito che tu ormai sei prima di tutto pessimista, cioè sei pessimista proprio cronico, perché io ti giuro. Io sono innamorato di Sarri. La strada verso quella parola che non pronuncio per rispetto della tua scaramanzia, scudetto, lo dico io. È lastricata di difficoltà, di rischi, di ostacoli. Ci sarà un mercato a gennaio, qualcuno spenderà, anche il Napoli spenderà, ma insomma possono succedere delle cose. Se poi a questo punto tocca proprio ferro e cornetti, ci sono le squalifiche, ci sono gli infortuni, ci sono mille variabili. Detto questo, oggi stiamo assistendo a qualcosa che non è una partita, sono sei partite. Sì. In queste sei partite il Napoli ha fatto di tutto, ha corretto i problemi difensivi, segna come nessun altro, ha cominciato a vincere le partite tra virgolette ignoranti, ha cominciato a vincere in trasferta, cosa che non succedeva prima, ha corretto il problema difensivo. Ha trovato la chimica giusta, ha trovato la chimica giusta in attacco. Quella è la grandezza di Sarri, secondo me, che un uomo che non ha vinto scudetti, non ha vinto Coppa Campioni, ha letteralmente conquistato proprio con il carattere, con il carisma personale, giocatori che erano dati per partenti come Calleone e Higuain. L'unica cosa che mi fa sperare quello che dite voi, e che io non ripeterò, è solo esclusivamente quella, è la conferenza stampa prima del Leggia di Calleone, che doveva essere il re dei delusi, il re degli scontenti, e che parla di Sarri come di un profeta, e di Higuain, che non ha speso una parola a favore di Benitez in due anni, perché questo purtroppo va detto, è che Di Sarri dice adesso con lui sto bene, sì, dopo l'anno che aveva passato. Quella è la dimostrazione di quanto, e per fortuna io posso permettermelo perché non sono sceso dal carro di Sarri quando, certo, quando andava bene. Raffaelita ha mai spiegato benissimo che cosa è stato Benitez. Sì, tanto ieri ne ha fatta una mica male. No, eh, ma voglio dire, fuori Benzema e dentro giocando esterno. Ha preso a prendere gol come li prendeva a Napoli, assurdi. Sì. Cioè, ma io però ti dico che secondo me mai come oggi è chiara la differenza fra il Benitez, persona godibilissima, simpatica, grande allenatore che ha vinto tanto, strumento di emancipazione addirittura culturale della città, come ci ha spiegato in maniera dotta Sollazzo, che è la base del rafaelitismo, un allenatore che ha fatto sentire Napoli centrale perché aveva un allenatore non provinciale ma un grande allenatore, uno dei santoni del calcio europeo. Detto questo però, se avesse a giocare a tre, molto banalmente, voglio dire, se avesse giocato a tre, ma ti dico di più, Giorginio già era un giocatore che ce l'aveva, eh. Il Napoli di quest'anno è quello dell'anno scorso più Allan, signori. Sì, insegna. Che ho il fantacalcio. Dai Allan a Benitez, probabilmente parliamo di un altro campionato. Ma Giorginio ce l'aveva. Giorginio ce l'aveva e non giocava a tre in mezzo al campo. E la chiama Allan vicino a Giorginio probabilmente fa giocare Giorginio molto meglio. Questo bisogna essere sinceri. Io non mi piace adesso che se n'è andato. Ma non neanche a me, neanche a me lo gioca a Benitez. Fare come De Laurentiis. Però che qui Giorginio questa squadra sia molto simile a quella dell'anno scorso, e quindi che la clamorosa esplosione di queste ultime partite debba essere imputata a delle cose tattiche che quest'anno si fanno e che l'anno scorso non si facevano, è evidente. Cioè, è evidentissimo, dai. Allora, bellissimo, ragazzi, bellissimo questa cosa. Sono arrivato pensando di parlare dei problemi nel Milan. Ho scoperto che il Napoli ne ha molti di più. Cioè, ragazzi, la depressione mi è passata di colpo. Mi è passata Milan, di colpo. Stasera, Milan, che fai? stasera, ma così. Io dico solo una cosa: che Benitez e Sarri sono necessari l'uno all'altro. Dopo, prima di Sacchi c'era Lidl. Servono entrambi. Servono a una squadra che sta crescendo. Servono entrambi i giocatori. Io l'unica cosa di cui sono contento, e di questo ero sicuro, ha cominciato il lavoro. Sì, ha cominciato, esatto, e ha detto: ma mi hanno proposto il Napoli, poi ho deciso di non accettare. Boris, grazie. Ma meno male. Meno male per il Napoli, certo. Boris, grazie. Alla prossima. Grazie a voi, a presto. Alla prima sconfitta ci sentiamo. Allora, mi tengo Alessandro Milan, Pierluigi Pardo ovviamente collegato. Ci sentiamo subito dopo la borsa. Grazie, mister. Lei è sempre troppo gentile con me. Grazie. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Ma proviamo a riannodare i fili. Alessandro Milan qui con me, Pierluigi Pardo ovviamente con noi al telefono. Lorenzo da Trento aspetta dalla preistoria. Io chiedo scusa. Prego, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì, più o meno sono qua con i tirannosauri. Con i tirannosauri, con i T-Rex, sì. Allora, ascolti, no, io volevo solo una preghiera a Mihajlovic, perché sono un simpatizzante del Milan e vorrei chiedergli di dimettersi prima possibile. No, ha già detto di no. Ha già detto non mi dimetto. No, ma magari se tanti milanisti si aggiungono a me e lo pregano, c'è una petizione. Magari lui. Ma per mettere chi? No, guardi, anche Galliani, Berlusconi. Ottimo. Io prenderei Donadoni comunque. Benissimo. Sì, rimbalzano questi due nomi, Donadoni e Spalletti. Se metti Donadoni vuoi mettere Zapata a quel punto, che è gran marcatore. Rodrigo Eli un fenomeno diventa. Ah, De Jong, sì. Grande incontrista la Gattuso diventa con Donadoni. Vabbè. Lorenzo vuole promuovere una petizione tra i tifosi del Milan, anche quelli che ieri sera hanno sonoramente fischiato Galliani quando ha lasciato la tribuna, poi lunga telefonata Galliani Berlusconi e poi Galliani sceso in spogliatoio, insomma, una sorta di psicodramma. Sì. Siamo depressi, d'altronde. Pardo lo sa bene, no? Insomma, è chiaro che oggi è il giorno della pancia, anche nel mio caso è tutto l'anno, viste le dimensioni, però voglio dire oggi è il giorno della pancia dei tifosi, quelli del Milan e quelli del Napoli, è il giorno delle emozioni forti e ci stanno questi ragionamenti. Io non credo che sia colpa di Mihajlovic, però credo anche che Mihajlovic non sia partito bene e credo che questa cosa qui la sappia anche lui e che sia intellettualmente onesto a riconoscere tutto questo, quindi io mi aspettavo qualcosa di più, soprattutto in termini di solidità da questo questa squadra, ma anche di atteggiamento, perché Alessandro ha ragione, Mihajlovic non è riuscito con la sua grinta, il suo carattere, con la sua presenza scenica, se non in qualche partita tirare, non è riuscito a comunicare a questa rabbia, cattiveria che le sue squadre hanno sempre avuto. Io questo me lo aspettavo. No, Marco, che dice? Provincia di Monza, buongiorno. Sì, io da tifoso milanista oramai lo stomaco me lo sono fottuto da un casino di tempo. Comunque io volevo dire che non bisogna più difendere l'indifendibile. Abbiamo una cozzaglia di giocatori, ragazzi, prima ce ne rendiamo conto e meglio è. Abbiamo speso 100 milioni e ci hanno detto che hanno comprato un centrale che era il nuovo Nesta, ma ve lo ricordate Nesta che cosa faceva in mezzo lì o no? Non è ancora Nesta Romagnoli, certamente. Per me uno dei meno peggio Romagnoli, ma, di quelli che abbiamo. Uno dei meno peggio. Un giocatore assolutamente futuribile. Ma ce lo ricordiamo il centrocampo del Milan, che giocatori aveva o no? Ma perché ci dobbiamo fare del male a ricordare il centrocampo del Milan? Della Gazzetta, sono dei bambini, ma la cosa di Nesta. Sono dei bambini viziati. Mihajlovic non ha colpa, perché li sgrida, allora giocano male. Sono dei bambini viziati. Punto e basta. Però il maestro normalmente riesce a raddrizzare le piantine viziate. Sono banalmente di qualità da sesto, settimo, ottavo posto. Punto. Cioè, sì. Non è che sono. Non, il livello è quello. Cioè, le altre squadre hanno giocatori più forti. Punto. No, io dico però che quella cosa, voglio precisare quella cosa lì, non me ne vogliono gli amici della Gazzetta, quel titolo lì lo sappiamo, è stato un titolo forzato. Romagnoli non ha mai detto di essere come Nesta, è stata una forzatura giornalistica e in qualche modo secondo me l'ha anche subita il ragazzo. Poi io mi aspettavo di più, mi aspettavo di meglio sicuramente, insomma. Beh, ma aspetta un attimo, no? Cioè, tra tutte queste cose credo sia un giocatore che merita pazienza. Sì, merita pazienza, ma hai speso 25 milioni più bonus, cioè la sostanza è questa qui. Tu non hai comprato Benatia, faccio per dirti, no? Non hai comprato un giocatore che sai, perché ha una sua case history, come dicono gli inglesi, di 5-6 stagioni di alto livello e sai già che ti potrà dare tutto subito dal 23 agosto. Hai preso un giocatore che sta mostrando tutta una serie di limiti, che ripeto, sono fisiologici guardando l'età e sicuramente migliorerà lui e migliorerà il Milan. Però ecco, insomma. Sì, ma bisogna vedere anche chi gli sta davanti. Infatti, no? Pierluigi, forse Romagnoli non è il giocatore, essendo giovane, che può prendere in mano alla Franco Baresi dei certo. Come personalità ancora, cioè, se venisse messo in una squadra con se giocatori vicino validi, a Zapata, Mexes, probabilmente avrebbe bisogno di un compagno, con davanti Montolivo e De Jong, cioè chiedere a Romagnoli di prendere in mano appena arrivato la squadra e trascinarla come appunto il Franco Baresi dei bei tempi, forse no. Se invece venisse messo in un contesto in cui è a fianco dei giocatori di livello, credo che risalterebbe di più le sue qualità. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. No, io volevo solo dire che sembrerebbe che dei problemi del Milan state focalizzando solo gli aspetti a valle, ma secondo me la confusione, la depressione arriva dall'alto, dalla proprietà. Intanto abbiamo due amministratori delegati, uno per l'aspetto sportivo e uno per l'aspetto commerciale. Quello per l'aspetto commerciale è stato smentito subito, cioè hanno detto che lo stadio di proprietà era fondamentale per stare tra le big e adesso paghiamo 10 milioni di penale perché non lo facciamo più e vogliamo stare a San Siro per motivi affettivi. Quello che è responsabile per l'aspetto sportivo aveva lì Braida, l'ha cacciato via, che era l'unico che ci capiva qualcosa, fa lui le campagne acquisti con i suoi amici e poi adesso lo rivogliono Braida. Secondo me la confusione sta in alto, non sta nei giocatori. Aggiungiamo anche che è un momento delicato e decisivo della trattativa per il passaggio di proprietà del Milan, per l'arrivo di Mister B. Quindi fatalmente un po' di confusione c'era da aspettarsi, magari il pasticcio dello stadio no, quello lì è stato, no. Quello lì è stato gigantesco, in tutta onestà. Cosa dici, Milan? De che? Dello stadio. Delle tante cose. Ma non ho un'idea ben precisa su questa storia del portello, eccetera. Certo, anch'io condivido come l'ascoltatore il fatto che un dirigente apicale del Milan, che ha un cognome non casuale, dice una cosa e viene smentito dal presidente, nonché papà. Ma insomma, dimostra il fatto che qualche confusione a livello societario c'è. Poi che sia meglio lo stadio del Portello piuttosto che San Siro, su questo non ho gli elementi per decidere. No, ma non è questione di meglio o peggio, è stata un'operazione che non è stata gestita bene. Assolutamente, ecco. Almeno come comunicazione. Plastico, progetto, sì, certo. E poi niente, retromarcia. Non sì. hanno neanche fatto in tempo a fare un paio di comitati antistadio fatti bene. Cioè, proprio sì. si sono ritirati subito. Senti, ci fermiamo per il traffico? Cosa dite? Stai qui ancora un po', Alessandro. Come Milan? No, dopo parliamo della Fiorentina, però. Perché la Prosesto già la Prosesto. Ragazzi, ma siamo primi nel girone B di Serie D a fianco al Piacenza, che abbiamo pareggiato a 1 e 27. E non parliamo della Prosesto capolista. È un complotto. Ma io non lo so. Arriveremo in Serie C coi gonfaloni di Sesto e non ne parliamo. Fate pure. Pronto per Tiki-Taka. È pronto per Tiki-Taka. Si presenta in maglietta Prosesto che ha ricevuto. Mi è arrivata la maglietta della Prosesto. Alino Milan, numero 9. Bomber. Ha capito. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. UFO su Firenze, UFO su Firenze, come il marziano a Roma. UFO su Firenze, UFO su Firenze, sulle mani dalla città. Questo UFO su Firenze non può che essere Paolo Sosa, nessuno se lo aspettava così grande da subito, una Fiorentina così bella da subito, compreso precampionato. Ho visto la prima col Milan e sono rimasto impressionato, al di là del Milan. Palla per terra. E infatti ho preso subito Kalinic al fantacalcio e tutti mi ridevano dietro. Perché non capiscono, Kalinic è un signor giocatore. Allora, ti ricordi Alessandro Milan, 1982, quanti anni avevi? 11 anni. Quando abbiamo vinto i mondiali. Esatto, ma prima di andare ai mondiali, Ciccio Graziani segnò il quasi gol del quasi scudetto della Fiorentina. Ciao Ciccio. Ciao ragazzi, grazie di avermi convocato anche oggi. A Cagliari, grazie a te. Ciccio, come stai? Che rapporto hai con Paolo Rossi e Pupo? Buono. Vuoi andare stasera? Ti colleghi da dietro casa tua? Io purtroppo questa sera sono a Napoli, amico mio. Collegato alla grande. Giusto, grandissimo. Ciccio, per questa Fiorentina si sprecano i paragoni, no? Come quella di Batistuta e del disgraziato del mondo, o magari come la tua che arrivò ad un filo dallo scudetto. Ad un passo, è vero, ma non so se si somigliano, ma insomma i risultati sono ottimi. Tra l'altro a sorpresa, perché nessuno si aspettava che la Fiorentina potesse avere un cammino così prolifico in questo inizio di stagione. Sette partite, 6 vittorie e mezzo, perché poi non ci dimentichiamo che contro il Toro ha perso, ma il primo tempo iniziava 1-0 giocando anche molto, molto bene. Quindi direi una grande sorpresa, bella. E mai come quest'anno questo campionato è divertente, perché ci sono tante squadre che può arrivare in fondo bene. Ciccio, secondo te? Io credo che a Firenze adesso devono fare una cosa che è importante: non montarsi la testa, mantenere i piedi per terra, gestire bene l'entusiasmo che c'è in città, perché ieri sera caroselli da tutte le parti. Adesso è un momento difficile, tra l'altro la partita prossima sarà uno scontro diretto, ecco, importante, Napoli. Contro il Napoli. Ma se sanno gestire bene il momento e tengono i piedi per terra a Firenze, questa è una squadra che insieme alla Lazio potrebbero diventare la meno vacante di questo campionato. Sì, con la giusta ambizione, però, Pardo. Con la giusta ambizione. Però io adesso volevo dirvi una cosa che è successo. È entrato il signor Smith, che non so se sapete chi è, ma mi ha appena portato la canottiera dei Boston Celtics di Larry Bird, più una serie di regali, per cui lui la maglia della Prosesto, un minuto, ma ho avuto a qualcuno la maglia della Prosesto, no, e qualcuno... è una cosa, è un momento per cui qualsiasi cosa tu abbia detto io sono d'accordo a prescindere. E in questo momento, fra l'altro, mi dispiace che non ci sia il videotelefono, perché ho la carrozzina. Ma ti sta? Ma ti sta? Mi sta. Senti, fesso, mi sta no, perché sono magro. Che taglia è Smith? Una L? È una S? No, no, è una L. È una L. Adesso posto la foto e vi taggo. Dai, faccela vedere. Sì, comunque sono d'accordo a prescindere con Ciccio. Sei d'accordo a prescindere con Ciccio Graziani? Non so cosa abbia detto, però sono con lui. No, sono d'accordo anch'io. Ciccio dice adesso volare bassi perché il momento è volare bassi a Firenze. È facile volare bassi, mica tanto. No, perché Ciccio Graziani conosce bene l'ambiente a Firenze e si riesce, Ciccio, a volare bassi a Firenze. È difficilissimo volare bassi a Firenze in questo momento a Firenze sognano quasi l'impossibile, però è anche vero, io dico, che una squadra che sta giocando così bene è legittimo che poi il tifoso abbia la volontà, la possibilità, l'entusiasmo di sognare, però ricordandogli sempre, come ha fatto per esempio molto bene Paolo Sosa, che è il condottiero di questa squadra, che l'obiettivo non è quello di vincere lo scudetto, perché sennò poi alla prima sconfitta o al primo momento difficile vengono fuori di nuovo le critiche. Invece assaporiamo bene, gestiamo bene questo momento, perché è giusto che sia così, però con i piedi per terra, perché la Fiorentina, come obiettivo massimo, rimane sempre quello di un preliminare di Champions, che sì, sarebbe come vincere uno scudetto. Questo sicuro. Questo posso sicuro. Dire che è molto bello in questo momento. Napoli e Firenze sono due realtà in qualche modo parallele, no, del nostro calcio, perché sono due piazze, secondo me sono le piazze più simili poi a Roma e Torino, di città che vivono, di tifoserie che vivono veramente 365 giorni all'anno per la squadra e che non sempre, diciamo quasi mai, si ritagliano momenti come questo, eh. Ed è molto bello, secondo me è molto bello, e capisco perfettamente, insomma, l'entusiasmo che c'è sia a Napoli che a Firenze in questo momento, perché secondo me è veramente il godersi l'attimo, il godersi il presente, indipendentemente da quello che succederà nel futuro. Non so dirvi chi vincerà il campionato, forse nessuna di queste due alla fine, però la serata di ieri è storia per il Napoli, e la Fiorentina in testa dopo 7 giornate è storia per Firenze. Quindi io capisco perfettamente il tifoso che in questo momento fa come Samuele Bersani: togli la ragione, lasciami sognare in pace. Sì, ecco, sì, proprio sì, banalmente. Sì, sì, no, beh, poi dietro l'angolo della inutile sosta della nazionale pallosa quanto mai, c'è Napoli-Fiorentina, e ti immagini Alessandro Milan quella partita. Quella è una bella partita, quella sicuramente la classica partita che tutti vorrebbero giocare. Esatto, poi e anche i tifosi come me del Milan se la vogliono vedere godendosela, senza tifare per nessuno, vedendo uno spettacolo, cercando di dire veramente vinca il migliore. Sono le due squadre che stanno producendo il gioco migliore. Sì, sì, sì, addirittura oggi leggevo Danny Mura su Repubblica, ha paragonato la Fiorentina all'Ajax ma senza Cruyff. Ciccio, come tipo di gioco? Sì. No, ma il gioco, addirittura ieri qualcuno ha ipotizzato anche un piccolo accostamento, che ci può stare, ma rimane sempre piccolo, al modo di giocare del Barcellona, questo continuo passaggio, questo continuo palleggio, quelle verticalizzazioni. Come lo chiamiamo? Questo come tiki-taka, lo vogliamo chiamare tiki-taka. Come lo vogliamo chiamare? Chiamiamolo tiki-taka, bello questo nome, bello. Il tiki-taka ci sta Pierluigi, ma a Firenze stanno giocando bene, davvero, è una squadra che vince attraverso il gioco, anche se non bisogna mai dimenticarlo, ieri c'è stato anche quell'episodio molto favorevole, perché subito in vantaggio, dopo qualche minuto, e in superiorità numerica è chiaro che poi tutto diventa più semplice. Però la Fiorentina credo che anche in parità numerica ieri secondo me avrebbe vinto, perché ha giocato una gran bella partita. Sì, la fortuna aiuta gli audaci, forse ha detto qualcuno. Ciccio, grazie. È vero. Un abbraccio a tutti. Ciao Ciccio Graziani. Ciao. Siamo in chiusura prima ora. Tra poco saluterò e ringrazierò Alessandro Milan. La stessa cosa faccio con Pierluigi Pardo, che dunque stasera De Laurentiis. Stasera De Laurentiis, Boris Sollazzo dice che non lo penso più, ma io lo penso, Boris, adesso ci rispondo. E stasera abbiamo De Laurentiis, abbiamo Paolo Rossi e Pupo collegati insieme, abbiamo Muntari, novità dell'ultima ora, che era il motivo della chiamata della dottoressa Satta, sai che sono molto amici con il Boa e quindi mi dava questa bellissima notizia. E poi abbiamo Cruciani, abbiamo Mastella, abbiamo Milan, che a questo punto convoca no, c'è già Cruciani, deve uscire con me. Staffelli ha fatto un tweet dicendo sta attento ai tapiri questa sera, ai tapiri calcistici, l'ho invitato, quindi mi ha detto vediamo se farà irruzione, ci divertiremo. 23-25 Italia 1, e domani eccezionale, torna tutti convocati, ma subito nella grafica di gioco. Aspetta, vediamo se c'è un Piccinini, devi andare. Che c'è? Il TG? Il TG. Vediamo se c'è, vediamo se trovo un Piccinini. Pizzi! C'è Pizzi? No, cioè, perché oggi girava, capito? Ma se, quando lo trovi, almeno facciamo un po' di registriamo un po' di audio. Tra un po' ci chiede le royalties, certo, capito? Capito. Ho qualche dubbio. Ciao Pierluigi Pardo, Alessandro Milan. Stai tranquillo perché ti prendono Boateng a gennaio. Oh, beh, sì, Boateng. Perché non Van Basten? Secondo me lì davanti si piazza lì in aria e pam! Ogni tanto pam! Van Basten, Virdis, guarda che sta a Milano, è buono, c'ha un negozio, lo tiri dentro, lo convochi tu, lo metti all'ala, Virdis, all'ala, Pietro Paolo Virdis. Grazie Alessandro Milan. A voi. A domani mattina. Noi invece ci sentiamo subito dopo il GR 800 24 00 24, numero verde. Grazie, buon appetito. Tutti convocati. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia hai il mal di testa? Prendi Focus Economia, ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia, di Sebastiano Barisoni, da lunedì a venerdì alle 17, solo su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Gran Moravia e burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Tutti i giorni alle 9, Mix 24, con i faccia a faccia, le inchieste, i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, i Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Si ricomincia! Convocati. Mané, c'è l'apertura per Graziano Pellè, entra in area, Pellè! Letale, 3-1, non esce più da quel buco nero che ha risucchiato il Chelsea. 1, I don't run away. 2, if the club wants to sack me, they have to sack me, because I'm not running away from my responsibility, from my team, but I am more than convinced that we finish top four, because if the club sacks me, they sack the best manager that this club has. Petrocchio a Skrtel, questa volta parola dentro, Higgs di testa e Liverpool passa in vantaggio dopo 41 minuti del primo tempo. Ancora una volta difesa dell'Everton in difficoltà sui calci piazzati. Browning, poi De Lofeu in mezzo, Chan, ancora Lukaku, arriva il pareggio dell'Everton al primo di recupero, è il sesto gol di Lukaku al Liverpool in carriera. Questo weekend anche in Inghilterra è successo di tutto, eh. È successo veramente di tutto, con Mourinho sempre più su. In questo momento non è il più popolare allenatore portoghese, superato in tromba al momento da Paulo Sousa. Mourinho dice: se vogliono mandarmi, mi devono mandare, io non scappo, non mi dimetto, e se vogliono mandare via il più bravo allenatore questo club abbia mai avuto, si prendono la loro responsabilità. Invece chi è stato cacciato è Brendan Rodgers, 1-1 nel derby con l'Everton, e licenziato il tecnico che portò due stagioni fa a un millimetro da uno storico titolo il Liverpool. Probabilmente arriverà Klopp sulla panchina dei Reds, ma in ballo anche Ancelotti, si sente dire nelle ultime ore. L'Arsenal ha asfaltato il Manchester United 3-0, tre fischi a casa con doppietta di Sanchez. È mostruoso Agüero, 5 gol, 1, 2, 3, 4, 5 in 22 minuti. Magari tra poco torniamo a parlare anche di temi inglesi. 80024 0024, suppongo che Gianfranco da Vicenza voglia parlare più di temi italiani. Mi sbaglio? Sì, sì, pronto. Eccoci, dica. Ciao, ciao, sono Gianfranco di Vicenza. Allora, io volevo parlare del Milan perché essendo tifoso rossonero da sempre praticamente, e ne ho fatte di tutti i colori, ho visto il Milan che perdeva la Stella 5-3, l'ho visto andare in Serie B, però ho anche goduto con Sacchi, con Gullit, con Van Basten e anche con Lidl. Sì. Punto è questo, io volevo sapere il vostro parere. Il Milan ha speso 90 milioni per avere questa squadra, questo allenatore che mi dava molto più fiducia di Inzaghi. Io volevo capire, secondo me i mali del Milan sono nati da quando hanno venduto Ibrahimovic e Thiago Silva, c'è niente da facile, fare. È facile dirlo, cioè, Ibrahimovic e Thiago Silva erano un'altra squadra, mi sembra abbastanza evidente che il punto di svolta sia stato questo, no Gianfranco? Ecco, io volevo sapere qual è il male del Milan, perché secondo me Seedorf era forte, Inzaghi è stato un campione e Mihajlovic hanno vinto tutto, ne capiscono di calcio questi personaggi. Sì, Seedorf e Inzaghi sono stati bruciati, cioè Seedorf è stato strappato dal campo, giocava ancora in Brasile, stava studiando allenatore, convocato in fretta e furia e messo alla guida del Milan, lui che non aveva praticamente mai allenato. Inzaghi ha fatto una buona esperienza con le giovanili, però cioè, da lì ad allenare una squadra come il Milan, con le pressioni che comporta e con una squadra che non era un granché, così come non è un granché in questa edizione. È vero, sono stati spesi molti soldi, questi investimenti non hanno ancora fruttato, lo stesso investimento Mihajlovic non ha ancora fruttato. Quali sono i problemi? Facile dire, come sottolineava prima Alessandro Milan, un centrocampo che al momento non è qualitativo e che non riesce a proteggere la difesa, quindi questo mi sembra la pecca principale. Ripeto, 13 gol subiti in 7 partite, seconda peggior difesa del campionato dopo quella del Carpi, che però ne ha presi 10 in 2, 5 a Genova la prima giornata con la Sampdoria e 5 con la Roma. Quindi fate voi i conti, non funziona niente in questo momento al Milan. Prima di Stefano, la provincia di Forlì, voglio farvi sentire un'altra cosa. Il podio delle dichiarazioni del fine settimana. Al primo posto c'è questo simpatico duetto tra Vialli e Paolo Sosa. Hai preso tutti i patentini, ma ti sei fatto anche la gavetta, sei stato in Inghilterra, sei stato in Svizzera, quindi ti sei guadagnato il posto. Solo che parli con dei paroloni che io non faccio fatica a riconoscerti, Paolo. Cioè il dialogo era più semplice in camera. Non sei stato attento quando eravamo compagni. Allora, secondo gradino del podio per Mancini, che con chi può prendersela Mancini? È ovvio, uno dei suoi bersagli preferiti, anzi il preferito in questo momento, i giornalisti. Io chiaramente non generalizzavo, però certo. Se uno mi fa una domanda finita la partita e mi dice nel secondo tempo avete cambiato modulo, noi ci giocavamo dall'inizio, insomma, vuol dire che non ha visto la partita, ecco questo. Poi sul podio anche terzo gradino per Garcia, è stato detto, ma Gervinho adesso è risorto, l'indesiderato Gervinho, hanno provato a vendere praticamente in tutto il mondo senza riuscirci. Beh, ieri gol strepitoso, l'avete visto io credo, doppietta, è quello che ha insomma risollevato la Roma ieri a Palermo. È il suo cocco? Gervinho, il cocco di Garcia? Qualcuno aveva detto è il cocco del tecnico, lo fa giocare sempre perché insomma è una passione anche quando non la vede mai. Ma quando non gioca bene non gioca, questa è una cazzata chi dica questa cosa, e quando sta bene gioca, in questo momento sta bene, aiuta la squadra, segna, difende, quando è così è un giocatore ovviamente che ci può aiutare. Beh, insomma, l'ha presa bene, no, Garcia? Stefano, provincia di Forlì, buongiorno. Buongiorno a voi. Io ho chiamato un paio di volte, un anno fa e 2 anni fa. 2 anni fa un po' ridacchiavate quando io parlavo di Galliani. L'anno scorso no, adesso cosa mi dite? Nessuno critica Galliani. Ha fatto di tutto, tutti i suoi porci comodi, i suoi interessi privati, con gli amici procuratori, con gli amici presidenti, ha distrutto il Milan. ha tolto l'amore per la squadra a tutti i milanisti come me, che sono andati in trasferta a Barcellona, dappertutto. La gente non ne può più, non guarda più neanche le partite per non soffrire. Leggete qualche passaggio di Serafini, quello che ha scritto, un altro che se n'è dovuto andare da Milan Channel e da Mediaset perché quando parlava era un nemico. Questa è un'accusa che Gagliani... Il deserto, non c'è più nessuno attorno al Milan, i milanisti non guardano più la partita, non guardano più la squadra, non soffrono neanche più, è atarassia proprio. Depressione, come diceva prima Milan. No, peggio, atarassia, non ti dà neanche più fastidio ormai, è proprio peggio. Indifferenza. È come quando l'amorosa ti lascia e non l'hai più amata, è come se non l'avessi mai amata, è così. Quindi il colpevole è Gagliani. Gagliani è chi lo lascia lì, quindi di conseguenza in primis Berlusconi. Beh, però Gagliani negli anni scorsi ha fatto il mercato con i soldi pochi che gli venivano messi a disposizione. Però anch'io avevo una morosa bellissima negli anni 80, poi mi ha lasciato, adesso è vecchia e brutta. Cosa fa Squaccio? Mi rimetto con lei oppure cambio? No, la squadra non si cambia, Stefano, no, mi insegna. Non c'è riconoscenza verso uno che ti ha distrutto, ti ha fatto anche vincere, forse. No, ma come forse? Molto forse, perché bisogna vedere che valore aveva lui quando il Milan vinceva, perché la squadra l'ha fatta Sacchi, l'ha fatta Braida, l'ha fatta Leonardo. L'hanno fatta. Guardi, sa cosa si diceva al Milan quando vinceva? Sì. Quando si diceva che la squadra funzionava, la società funzionava perché ognuno aveva i suoi compiti, ognuno aveva le sue responsabilità. E non si andava fuori dall'orto di competenza. Questo si diceva. Poi no, mi sembra ingeneroso dire forse già vado a vincere. Dall'87 che il Milan alla fine vince, no? Con tutto quello che ha portato in questi anni, dagli scudetti alle coppe. Quindi adesso capisco il momento dell'amarezza, lo capisco, però secondo me è appunto un po' l'atteggiamento del fidanzato lasciato dall'amorosa, Stefano. Francesco da Pisa, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei. Niente, io desideravo esprimere due opinioni parallele, nel senso anche se opposte, tra il Milan e il Napoli. Cioè, come al di là dei modelli di gioco, quello ci ne sanno gli allenatori. Però io credo che Mihajlovic non è adatto al Milan, perché ha proprio un carattere come personalità e cose varie, e non si rende conto che gli hanno comprato dei giocatori con poca, diciamo così, personalità. Diceva un ascoltatore prima, sì. Dice sono dei bambini che quando li sgride poi fanno, come dire, lognose, eccetera. Sì, però Mihajlovic non è uno che se le fa scivolare addosso, insomma, non è nemmeno che alla Sampdoria, no, che ha fatto... Non ci andrà, però dico, psicologicamente... E ognuno di noi ha un limite. Quei ragazzi là, magari in futuro, fra 5 anni, 6 anni, diventeranno dei grandissimi campioni, per carità. Sì, cioè, non credo ma che io ripeto, quello che più mi sorprende è l'atteggiamento dei giocatori, è il body language dei giocatori. Cioè, potevamo aspettarci un Milan in costruzione, non certamente un Milan da scudetto, ma nessuno ne ha mai parlato. Però un Milan più cattivo, più grintoso, più con la faccia di Mihajlovic, questo ce lo si poteva attendere. Non l'abbiamo ancora visto. La faccia di Mihajlovic nella squadra non l'abbiamo ancora vista. Diceva del Napoli? Lo poteva fare perché magari c'era gente più scappata. Qui questo Milan, cioè queste ragazzine. Ragazzi, non è che si può fare grandi prospettive tipo scudetto, UEFA, no, scudetto. Champions League. La taratura è quella, per quest'anno bisogna accontentarsi se ci si salva prima, poi il Napoli. Sì. Il Napoli sta dimostrando un uomo così oscuro di fama, nel senso all'Empoli, sì, eccetera, eccetera. Sì, con lunga gavetta Sarri. Si è confrontato con una realtà, ha avuto il coraggio di cambiare, di impostare una squadra che è una macchina da gol. Io sono convinto. Ma no, allora Sarri è stato estremamente intelligente, estremamente umile nel ritoccare il suo disegno, perché il primo Napoli non funzionava, fase difensiva, faceva anche fatica in attacco, eccetera. Ha ridisegnato il Napoli, ha detto vabbè, trequartista magari un'altra volta. Gioca con due esterni, con Higuaín, che è il più forte, Higuaímovic, A proposito, Ibrahimovic, record di gol nella storia del Paris Saint-Germain con la doppietta di ieri. Comunque, ha rimodulato la squadra, trequartista un'altra volta, adesso ha Higuain che è un mostro, l'attacco più forte del campionato, ha Insigne che, ripeto, secondo me in questo momento è il più forte giocatore italiano. Allora, sto vedendo per caso immagini del rugby, dell'Italia del rugby, che ieri ha salutato il mondiale perdendo contro l'Irlanda. Sconfitta attesa, è stata una sconfitta onorevole, però mondiale finito. Adesso chiuderemo con la Romania, ma soprattutto si chiuderà un'epoca, sarà con ogni probabilità un grande ribaltone, a partire dal tecnico che non ha convinto, lasceranno dei giocatori storici come Castro Giovanni e Mauro Bergamasco. Allora, sentiamo un paio di voci, Paris e Gori. La squadra, sia a livello difensivo ma anche col pallone, abbiamo cercato veramente di mettere in difficoltà questa squadra irlandese, per certi versi ci siamo riusciti, e peccato che nel secondo tempo non abbiamo segnato questa meta sull'angolino che forse poteva cambiare un po' le sorti della partita, quindi niente, ovviamente tanta delusione di questa sconfitta. L'Irlanda, penso che è stato ovvio per tutti che non ha preso nessun rischio, si è dedicata un po' a fare solo calci nel secondo tempo, però è il loro gioco, sono bravi su questo, sono stati veramente bravi, complimenti a loro per la vittoria. Sicuramente c'è tanta delusione, perché volevamo raggiungere questo risultato storico. Purtroppo è andata così. Una cosa che devo dire, sono molto contento della squadra, perché si è visto una squadra in campo. Nonostante gli errori, ognuno voleva recuperare l'errore dell'altro e tutti eravamo a incitarci a cercare questo risultato. Purtroppo non è arrivato, ma purtroppo lo sport e la vita è così. Non sempre le cose che vogliamo arrivano, per cui lavoreremo per la prossima partita per essere pronti al massimo. Rugby deluso dunque, ma c'era da aspettarselo. L'Irlanda è una delle grandi favorite di questo mondiale, che ha visto la sorpresissima dell'eliminazione dell'Inghilterra. Dramma sportivo nazionale, leggevo prima, inciderà anche addirittura sulle borse questo capitombolo terrificante della nazionale bianca padrona di casa. Protagonista invece in positivo della domenica, Vincenzo Nibali, grande Lombardia, è tornato un grande Nibali, ha rotto il digiuno con una vittoria strepitosa. Vincenzo Nibali. Con questa vittoria, diciamo, il morale è molto, molto più alto, più bello, e sono veramente contento, perché era una vittoria che desideravo tanto, ma non da ora, specialmente qui a Lombardia. Piero Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao, grande corsa di Nibali, grandissimo Lombardia, sì. Si chiude così la stagione. Insomma, salutiamo al momento il grande ciclismo con il dolce sul palato. Eh sì, un bel dolce, lo si sentiva, lo si stava un po' assaporando, perché Vincenzo, dopo la Vuelta, dopo quell'allontanamento brusco e doloroso, se l'era legata al dito e aveva dimostrato di avere una buona condizione, tant'è vero che è riuscito a vincere la Bernocchi, a fare dei bei piazzamenti, a vincere la Trevalli Varesine qualche giorno fa, e poi ieri la ciliegina, veramente con un'azione da grande fuoriclasse, perché bisogna essere sinceri, alla resa dei conti sul Siviglio le forze erano quelle che erano, in salita non riusciva a fare la differenza, però lui ha giocato tutto per tutto grazie alla sua lucidità e soprattutto alla sua grandissima tecnica, e devo dire anche il coraggio di buttarsi giù in discesa, a rischiare tutto, il tutto per tutto, e a fare la differenza. Lui lungo la discesa del Siviglio ha costruito la sua vittoria, che poi ha mantenuto nel tratto finale, e così si è regalato questa prima classifica monumento che gli mancava. Lui c'era arrivato molto vicino alla Liegi-Bastogne, arrivando secondo, ma ieri è riuscito a coronare questo grande sogno. Ragazzo, si inventa anche corritore da classiche, ci divertiamo, sì, per la storia, solo tre corridori prima di lui erano riusciti a vincere tutti i tre grandi giri, Giro, Vuelta e Tour de France, e in Lombardia, e questi tre corridori sono Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernardino. Quindi Nibali è sempre costantemente in buona compagnia, nell'elite. Diciamo che è lì, ormai lui è un'icona, nonostante abbia solo 30 anni, perché nel pieno della maturazione fisica, perché un atleta così, se non avrà incidenti, se riesce a mantenersi e soprattutto se riesce a mantenere l'appetito, almeno 4-5 stagioni di grandissimo livello, e quindi possiamo ancora divertirci con lui e con Fabio Aro che è chiaro, discretamente bene. È chiaro. Lo aspettiamo ovviamente al Giro d'Italia che nasce oggi, no? Verrà battezzato oggi il Giro d'Italia del 2016. Che corsa vedremo? Guarda, lo stanno presentando proprio in questo momento. Un Giro d'Italia difficile che si deciderà in Piemonte e si concluderà a Torino. Partenza dall'Olanda. Sarà un Giro d'Italia che secondo me si adatta moltissimo a un atleta, a un corridore come Vincenzo Nibali, che non ha ancora sciolto le riserve, ma il 95% sarà il via della corsa rosa, perché vuole assolutamente rivincere la corsa che lui ha già portato a casa qualche anno fa e che quindi vuole assolutamente mentre Aru sogna fissare il successo prima di andare poi in Francia, perché da programmi dovrebbe fare anche il Tour de France come tutor di Fabio Aru, che invece farà il suo esordio. Grazie Pieragusto. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Pieragusto Staggio, ti lasciamo la presentazione del Giro. Massimo da Udine, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie a lei. Oggi abbiamo parlato buongiorno. Di Inter, di Juventus, ma abbiamo tutta la settimana, Abbiamo parlato di Inter, di Juventus, di rigori dati o non dati alla Juventus, all'Inter. C'era quel rigore a Genova, però insomma Ferrero esagera, però ieri tutto sommato è stato un 1-1 che per l'Inter, vista la partita, sta giusto. Massimo, dica. Sì, io chiamavo per il Milan, sono un tifoso milanista, ho 43 anni, quindi ho vissuto il Milan di Sacchi, il Milan di Van Basten, eccetera. Mm. Ho un figlio purtroppo che ha 13 anni e vede il Milan, da molti anni lo vede perdere, lo vede fare queste figuracce. Io chiamavo perché non riesco a spiegarmi una cosa. Io adesso per motivi di lavoro anche seguo gli sport motoristici, e quindi il calcio non lo seguo tantissimo, ma il Milan con Sky eccetera lo guardo. Mm. Io stesso che non sono dentro nel settore, non sono così non riesco a capire come c'è scappato Sarri, cioè come hanno fatto a fare. Perché probabilmente volevano un allenatore che avesse maggiore esperienza e che fosse già stato in piazze importanti, e quindi è saltato fuori il nome di Mihajlovic. Credo che la ragione sia stata questa. Chiaramente si aspettava un Mihajlovic diverso e si aspettava un Milan diverso. Come ho detto, più tagliato sulle caratteristiche di Mihajlovic. Quel Milan non l'abbiamo ancora visto, non solo il Milan di Guido Van Basten, nemmeno il primo Milan di Mihajlovic abbiamo ancora visto. Chiudiamo qui, torniamo domani alle 2. Giorgio De Luca, nostro autore, Giovanni Macchione in redazione, Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao!